e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Concedimi stamattina di partire con una notizia proprio zuccherosa, dai, dolce. Però proprio riguarda perché anche sei i denari. Ma sa, queste cose qua mi incuriosiscono tanto. Prima cosa perché raccontano di bellissime storie imprenditoriali italiane legate a donne eccezionali. Io poi tutta questa storia delle tecnovisionarie, un po' tecnovisionarie come noi. Allora, si temeva che sparisse il marchio, invece tornano italiane le caramelle Rossana, che sono state inventate da Luisa Spagnoli, certo, che è stata la madre della Perugina. E allora, siccome è una storia straordinaria quella di questa donna, mi piaceva raccontare anche che percorso avessero seguito in questi anni le caramelle Rossana. Non no? le perdiamo. Non le perdiamo. Poi magari non sono tantissimo di nostro gusto, perché devo dirti che non è che proprio io le cerchi, no? Perché tu mangi delle... non sei tanto da caramelle. No, è vero, non mi hai mai visto. No, sono un po' più a meno che tu non mangi di nascosto. Di nascosto, no, ma figurati che cosa devo... E insomma, praticamente la Nestlé, a cui erano finite qualche tempo fa, adesso torna... Hai visto? Sentili qua come si... La sorpresona. Carmel! Allora, ma dalla... cosa ci fai? Fatemi finire questa notizia, sennò qua è finita la trasmissione. Carina, Caruccio, dai. Caruccio. Allora, dopo praticamente che erano state conquistate dalla Nestlé, adesso ritornano in mano italiane, sono state comprate dalla FIDA, che è una società appunto astigiana, un grande gruppo, attiva dal 73, opera esclusivamente nel settore delle caramelle. E quindi chiaramente ha voluto anche le Rossana per completare, diversificare tutto il panorama delle caramelle che già vende, che già distribuisce e produce questa società, ha voluto anche queste. Allora, una storia a lieto fine, dai. Esatto, mettiamo da parte però le caramelle, perché oggi invece per quanto riguarda i denari parleremo di temi molto meno dolci. E giovedì, il giorno di Investire Informati, terremo alta l'attenzione sugli aumenti di capitale in corso da parte di due banche italiane. Parleremo però anche di investimenti in obbligazioni societarie, perché partono gli acquisti della Banca Centrale Europea. E allora, un'obbligazione societaria, quanto deve essere contenuta anche in un portafoglio di un piccolo risparmiatore? E anch'io, Deborah, parlerò di rischi e di costi. Ottimo. Dei rischi per la nostra salute, dei costi per il nostro servizio sanitario e di quelli provocati in particolare dal colesterolo alto. Allora, domandone: a quanto viaggia il vostro? Lo avete misurato? Scriveteci subito e diteci anche che cosa fate per tenerlo sotto controllo e se ce la fate. In ogni caso, vi farà piacere sapere che 16 società scientifiche, di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità, hanno elaborato delle linee guida sul colesterolo cattivo, e quindi abbiamo ottime probabilità di avere la meglio su questo importante fattore di rischio che minaccia la salute del nostro cuore, ma anche quella del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Insomma, Deborah, colesterolo alla cuore denari. Ma prima di presentarmi i nostri ospiti, sentiamo che si dice di lui. Il grasso in eccesso dovuto alla cattiva alimentazione. Sì, è il grasso nel sangue. Tengo sempre sotto controllo e è un po' alto il mio. Quindi elimino i formaggi, elimino i grassi, tutte quelle cose lì che so che ormai è il mio disturbo, è centrato. Una sostanza che si trova nel sangue che più o meno ostacola o favorisce il passaggio del sangue, lo rende più o meno fluido, no? Sì, è un problema medico che riguarda i zuccheri, insomma, eccetera. L'ultima volta li ho controllati 2 anni fa ed erano a posto. Adesso non lo so, da 2 anni. Ma c'è anche l'altro lato della medaglia. Insomma, non tutto il colesterolo viene per nuocere. Se fosse una persona si direbbe che è veramente un VIP, un very important person, perché è presente, come si dice, nelle situazioni che contano: nella membrana delle cellule, nella guaina mielinica, quella che avvolge le cellule nervose, dove fa una sorta di isolante, permette all'impulso nervoso di trasmettersi senza disperdersi. Ma non finisce qui, il colesterolo si dà anche molto da fare nella produzione degli ormoni sessuali e di quelli steroidei, ed è il precursore della vitamina D. Ne abbiamo parlato tante volte di questa vitamina, che è indispensabile per regolare il metabolismo del calcio, mantenere in buono stato ossa e denti e non solo. Insomma, se non ci fosse il colesterolo bisognerebbe inventarlo. Ma chiedo subito conferma al nostro primo ospite, è tornato a trovarci il dottor Michele Gulizia, che è presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e direttore della divisione di cardiologia all'ospedale di Catania. Dottore, bentornato. Grazie, buona giornata a voi e a tutti i radioascoltatori. Dottore, non va demonizzato quindi il colesterolo? Beh, no, assolutamente, è un costituente fondamentale, come lei ha ben detto, delle cellule del nostro organismo. Ovviamente lavora molto meglio quando siamo neonati, bambini, nella fase della crescita. È un elemento fondamentale per lo sviluppo di tutti gli organi nobili, cuore, reni, cervello soprattutto, però a un certo punto della nostra vita, quando comincia a aumentare soprattutto quella parte cattiva, il cosiddetto colesterolo LDL, allora dobbiamo stare attenti, perché questa parte di colesterolo è un po' più denso, si deposita sulle arterie e quindi favorisce quelle ostruzioni che poi nel tempo possono portare a infarto, a ictus cerebrali, malattie della degenerazione appunto del nostro organismo, soprattutto quando si invecchia. Quindi, dottore, il messaggio è: non va demonizzato, controllato e tenuto a bada, perché quando è in eccesso diventa pericoloso ed è infatti il principale fattore di rischio cardiovascolare. Noi sappiamo bene che le malattie cardiovascolari impattano anche sul nostro sistema sanitario italiano. A proposito, dottor Gulizia, prima di continuare a parlare di colesterolo, vorrei commentare con lei i dati diffusi proprio ieri dal rapporto Censis, da cui emerge che 11 milioni di italiani rinunciano a curarsi a causa delle difficoltà economiche oppure delle liste di attesa troppo lunghe del Servizio Sanitario Nazionale. Il ministro Lorenzin, no, ha commentato che non si possono fare le nozze coi fichi secchi, quindi dobbiamo anche noi un pochino attrezzarci intanto che preparino delle nozze adeguate. Certo. E noi che cosa possiamo fare? Portarci qualcosa da casa? Sì, in un certo senso sì, dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per evitare le malattie evitabili, quindi puntando sulla prevenzione, anche perché questo è il nostro contributo per evitare che il nostro Servizio Sanitario Nazionale si salassi e quindi possa garantire anche, no, tutte le cure quando sono disponibili e necessarie. Dottore. Assolutamente sì, gli elevati livelli di colesterolo cattivo, appunto quello LDL, sono in assoluto il primo fattore di rischio per la cardiopatia ischemica davanti a fumo, diabete, ipertensione e obesità. Sono circa 2,5 milioni gli italiani che ne soffrono fra i 35 e i 79 anni, con un costo che poi magari discuteremo dopo, ma quello che è più importante è che non solo l'ipercolesterolemia in aumento, perché va oltre il 35% della popolazione che ne soffre in modo conclamato e che già è curata, ma che circa il 40% della popolazione non sa neppure di avere livelli superiori alla norma. E proprio in linea con quello che è il censimento del Censis, vediamo che è importante che il 24% degli uomini e il 17% delle donne, solamente questi riescono a controllare efficacemente il proprio profilo lipidico, gli altri assolutamente non ci riescono, vanificando i vantaggi della terapia. E questi sono dati preoccupanti che sono stati quelli che mi hanno spinto a riuscire a coinvolgere ben 16 associazioni scientifiche, società scientifiche, non solo di cardiologia, ma anche di lipidologia, di diabetologia, di medicina interna, di farmacologia, i laboratoristi di analisi, i medici della medicina generale e l'Istituto Superiore di Sanità, per completare e inviare al Ministro della Salute, alla quale aveva presentato il 24 maggio scorso, ben questo documento, un documento storico, il primo documento che in Italia in maniera univoca è condivisa tra tutti questi specialisti che curano i pazienti con le malattie cardiovascolari associate per colesterolemia, disegna in modo chiaro e scientificamente comprovato quello che è il percorso diagnostico e terapeutico che il paziente deve intraprendere. E il documento è proprio colesterolo e rischio cardiovascolare, percorso diagnostico terapeutico in Italia, perché in tutti i trial clinici si sono dimostrati che chi ha una ipercolesterolemia ha una probabilità di sviluppare coronariopatie di ben 3,6 volte in più rispetto a quello che è la popolazione normale. Quindi, dottor Gulizia, il rischio è molto alto e il rischio è ancora più alto se consideriamo che tanti italiani hanno il colesterolo elevato ma non sanno di averlo. Quindi pensate all'ultima volta che avete misurato il colesterolo, e se volete invece comunicarci i valori del vostro colesterolo, parlo al plurale perché non basta un dato, ce ne vogliono ben tre, ne parleremo con il dottor Gulizia. Noi siamo a vostra disposizione. prevenzione. Un ascoltatore scrive: mi fa piacere che parliate di prevenzione, l'unico problema è che in base alle carte del rischio pochissimi uomini e quasi mai le donne rientrano nella rimborsabilità delle statine, che sono i farmaci attualmente utilizzati, maggiormente utilizzati per la terapia per il colesterolo alto. Dottor Gulizia. Beh, in effetti non è vero, non c'è distinzione fra uomini e donne per la rimborsabilità delle statine. In questo documento che abbiamo presentato al ministro, abbiamo mandato anche all'AIFA, abbiamo anche voluto anticipare, perché i documenti devono avere capacità anticipatorie, la chiusura di quella che è la nota 13 dell'AIFA. Oggi le statine sono quasi tutte genericate, abbiamo tanti altri presidi terapeutici che ci possono permettere di curare il colesterolo in chi ne soffre e quindi di prevenire l'infarto. Bisogna avere un'equità di accesso. Certo, è quello a cui mira questo, sì, e anche il documento che voi avete firmato tutte insieme appassionatamente. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi torniamo. Ma il colesterolo dipende solo esclusivamente dalla dieta? Come faccio a tenerlo sotto controllo? Consigli e raccomandazioni del dottor Gulizia, e poi, come anticipato, faremo i conti, perché il colesterolo alto costa e parecchio. Cuore e denari. Sì, diamo i numeri e raccontateci a quanto viaggia il vostro colesterolo. Ne stiamo parlando oggi con il dottor Gulizia, che è in linea con noi, che è presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, direttore della divisione di cardiologia all'ospedale di Catania. Parliamo di numeri perché con il colesterolo, un po' come succede con la rondina primavera, un valore da solo non basta, dice poco. È importante considerare il valore del colesterolo totale, di quello buono e di quello cattivo, indicati rispettivamente con due sigle, LDL, quello cattivo, HDL, quello buono. Questo ci aiuta per capire se entriamo nella zona rischio. Ma dottor Gulizia, come facciamo a quantificarlo? Un tempo si usava una formula che adesso è diventata forse un po' vecchiotta, che era il rapporto tra colesterolo totale e HDL. Se il risultato del rapporto non superava il valore di 4,5 e se i valori degli altri fattori di rischio cardiovascolari erano nella norma, potevamo stare tranquilli. Immagino che adesso ci sia qualche cosa di più aggiornato di questo. Sì, certo, ovviamente. Il colesterolo totale deve stare sotto 190 mg decilitro. Per quanto riguarda quello cattivo, quello LDL, bisogna differenziare nelle classi di rischio. I pazienti ad altissimo rischio, quelli che già hanno avuto un infarto, sono anche diabetici, devono ottenere l'LDL sotto i 70 mg decilitro. Quelli a rischio alto, che sono i soggetti diabetici, ma anche gli ipertesi, oltre che diabetici, lo devono mantenere sotto i 100. Quelli a rischio intermedio, che sono solamente gli ipertesi, pazienti con scompenso, questi lo devono mantenere entro i 115 mg decilitro. Quindi i valori cambiano in funzione della nostra condizione. Se siamo Esatto. Per invece quello buono? Beh, quello buono. Se sono l'HDL e l'alto è, meglio è. Purtroppo si riesce ad alzare con molta difficoltà. Lo sport, soprattutto l'attività fisica e l'utilizzo di antiossidanti è l'unico modo per poterlo alzare. Dottore, torniamo un po' alla nostra Vox Populi, no? Alcuni hanno risposto è un grasso nel sangue, alcuni precisano deriva da una cattiva alimentazione, un eccesso di grassi, ma è sempre solo colpa della dieta, perché ci sono persone che non sono per nulla attente a ciò che mangiano e hanno un colesterolo perfetto, altri invece molto oculati che non riescono a farlo scendere. Questo dimostra sicuramente che non siamo tutti uguali, che ciascuno di noi è unico, ma come la mettiamo? Perché ognuno di noi ha una variabilità genetica e alcuni soggetti soffrono di colesterolemia anche sin dalla nascita, e questi sono i soggetti a maggior rischio che spesso hanno complicanze entro i 30 anni. Noi oggi abbiamo dei presidi terapeutici, delle nuove terapie innovative che permettono di aiutare anche questi soggetti. Altri soggetti che invece se mangiano un po' di grassi incrementano velocemente il colesterolo, e questi sono la stragrande maggioranza. E poi abbiamo una minoranza di soggetti su cui si fanno molte ricerche, soprattutto di carattere genetico, che pur consumando elevati quantità di grassi non sviluppano ipercolesterolemia o quantomeno non hanno quella cattiva. Bene, proprio su queste varianti i ricercatori stanno studiando e cerchiamo di mettere a punto quelli che sono provvedimenti terapeutici, quindi anche la prevenzione su questo sta facendo grandi passi da gigante. A proposito di prevenzione e di terapie, arrivano molti messaggi dai nostri ascoltatori. Un ascoltatore, ad esempio Andrea, ci scrive: la mia compagna teme le controindicazioni delle medicine prescritte, come rassicurarle? Anna da Pisa mi scrive: potete spiegare il motivo per cui i medici prescrivono le statine con molta facilità, dottor Gulizia, senza valutare il rischio cardiovascolare, infiammazione dei vasi, lipoproteine A e B, altri parametri tipo la proteina C reattiva ed altro, visto che le statine, ribadisce Anna da Pisa, hanno ancora molti effetti collaterali. Insomma, c'è una sorta di timore nei confronti delle statine e molti degli ascoltatori di Cuore Denari dicono, ci scrivono che i medici li prescrivono troppo alla leggera. Dottor Gulizia, ma è davvero così? Beh, in effetti no, purtroppo ci sono dei luoghi comuni. Le statine rappresentano oggi la terapia farmacologica più importante a nostra disposizione, che ci permette di abbattere l'ipercolesterolemia raggiungendo i valori, appunto, che abbiamo detto, target per ogni soggetto a rischio, nel buon 70-75% dei pazienti. Sono l'unico farmaco che ha dimostrato di migliorare e aumentare la sopravvivenza nei soggetti ipercolesterolemici, tant'è che il farmaco di prima scelta sia nella prevenzione primaria, cioè prima che avvenga un evento, e sia in quella secondaria. Il problema è che spesso i pazienti sopravvalutano l'utilizzo dei farmaci e lo fanno anche con gli effetti collaterali. L'aspirina a basse dosi è un ottimo antiaggregante per il sangue, cioè fluidifica un po' il sangue, dosi più alte fa passare la febbre, fa passare anche i dolori reumatici, ma se si eccede fa i buchi nello stomaco. Da certo. Qui a dire che l'aspirina è un farmaco dannoso ne corre tantissimo. Dottor Gulizia, subito dopo il GR quantificheremo insieme al professor Francesco Saverio Mennini i costi del colesterolo. Entriamo proprio in un tema anche molto caro a Deborah. Quanto ci costa il colesterolo cattivo? Ma diamo in un minuto alcune indicazioni. Sicuramente la dieta mediterranea, abbiamo proprio un minuto di tempo, protegge, ma ci sono degli alimenti particolarmente suggeriti, e penso alla dieta di coloro che hanno magari un profilo di rischio molto basso e quindi il colesterolo appena fuori norma. Ci sono degli alimenti capaci di far salire quello buono e far scendere quello cattivo? Assolutamente sì. E prima della dieta, il moto, l'esercizio fisico, non c'è bisogno di andare in palestra, basta sì, camminare, una camminata a passo veloce, e poi nella dieta utilizzare i cosiddetti 5 colori dei nostri vegetali, consumare grande quantità. Fermiamoci ai 5 colori e riprendiamo dopo, aggiungeremo sicuramente anche i probiotici. A tra poco, dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Siamo tornati insieme in attesa di sederci tra i banchi della nostra scuola di Investire Informati. Continuiamo a parlare di colesterolo, tra rischi per la nostra salute e costi per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. In linea con noi il dottor Michele Gulizia. Dottor Gulizia, abbiamo detto la dieta mediterranea e un'attività fisica, non significa ammazzarsi con pesi in palestra, ma fare un'attività fisica regolare, è un binomio vincente per tenere sotto controllo il colesterolo, ed è un consiglio che si può dare anche a chi è in trattamento. Assolutamente sì, abbiamo detto anche di consumare frutta e verdura dei 5 colori principali, cambiamoli fra loro, grandi quantità di cereali che contengono quelle proteine vegetali e quelle vitamine molto importanti per la crescita delle nostre cellule, poi consumare pesce, almeno 400 grammi 2-3 volte la settimana, bevendo almeno 1,5-2 litri di acqua oligominerale al giorno. Il concetto dell'acqua è molto importante anche per ridurre il colesterolo. Allora, chiedo a Danna di scriverci una mail, perché non riesco poi a delle richieste ulteriori, dei commenti da fare riguardo ai farmaci prescritti, in particolare le statine per il trattamento del colesterolo. Gireremo la sua mail al dottor Gulizia. Intanto che è caduto il dottor Gulizia? No, io sono qua. Ecco. Invece c'è caduto, ma lo stiamo ripescando, Deborah, sì. Un ospite che noi possiamo, è veramente un uomo alla cuore denari. Assolutamente sì, abbiamo creato molti personaggi, certo, di questo perché tipo. È un professore di economia sanitaria all'Università di Roma Tor Vergata ed è con noi il professor Francesco Mennini. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Ho detto a Deborah, è il nostro uomo alla cuore denari. Quindi le abbiamo messo questo bollino. Professore, lei col suo gruppo di lavoro ha recentemente presentato uno studio che ha evidenziato come il colesterolo elevato costi ogni anno più di 1 miliardo di euro al Servizio Sanitario Nazionale. 1 miliardo di euro. Beh sì, abbiamo fatto questa analisi dove abbiamo verificato come appunto la spesa supera il 1 miliardo di euro, al quale poi vanno aggiunti soprattutto circa 31 milioni di euro per i trattamenti farmacologici e 9,3 milioni per le prestazioni di assistenza specialistica. Quindi diciamo che il 1 miliardo di euro è strettamente relativo all'assistenza e ai ricoveri, quindi con l'esclusione delle altre voci di costo. Quindi questo è un impatto importante soprattutto sulle ospedalizzazioni in particolare. Quindi lei ci sta parlando di costi diretti, ma nella sua ricerca si parla anche di costi indiretti. I costi indiretti Quali sono? I costi indiretti sono importantissimi perché, ahimè, sono quelli relativi intanto alla spesa out of pocket dei cittadini, poi quelli che sostiene l'INPS come sistema previdenziale per i pazienti che accedono alle prestazioni dell'INPS e poi i costi relativi indiretti relativi alla spesa sociale che sono tutti a carico delle regioni con la voce di spesa sociale. E questi anche sono costi che impattano in maniera importante, ma soprattutto impattano perché i pazienti affetti da ipercolesterolemia hanno una riduzione della qualità della vita molto importante e quindi riducono anche la loro attività lavorativa e quindi ci sono anche molte giornate di lavoro perse. Per questo possiamo dire che quando parliamo di costi diretti parliamo solamente della punta di un iceberg, poi ci sono, no? Sotto ci sono solitamente in tutte le patologie che analizziamo i costi indiretti mediamente rappresentano circa il 50% dei costi e ricordo che sono nella maggior parte dei casi spesa pubblica, non è spesa sanitaria ma è sempre spesa pubblica, quindi risorse pubbliche che se si seguissero dei trattamenti corretti, ci fosse un'aderenza alla terapia corretta e una prevenzione corretta, potrebbero essere ridotti moltissimo e queste risorse potrebbero quindi essere utilizzate per fornire un'assistenza sanitaria più efficace a tutti quanti i cittadini. Teniamo conto che per i costi indiretti, per quanto riguarda gli assegni invalidità erogati dall'INPS, parliamo di 320.000 assegni di invalidità erogati dall'INPS per quanto riguarda solo le malattie cardiocircolatorie. Sono dei numeri che fanno paura. Impressionanti. Speriamo sì. Che con il documento di cui ci ha parlato il dottor Gulizia, che riunisce queste 16 società scientifiche che hanno elaborato queste linee guida, no? Sul colesterolo cattivo, dottor Gulizia, si riesca a fare davvero la differenza. Direi proprio di sì, è proprio questo l'obiettivo che noi vogliamo avere, quello di aumentare la percentuale dei soggetti che si curano e si curano bene, quindi portare dal 24 degli uomini, 17 le donne, almeno al 60-70%, e questo ci permetterebbe di abbattere in maniera rilevante i costi che il professor Mennini ci ha detto. Ma professore, a proposito, come siete arrivati a queste conclusioni? Che strumenti avete usato per calcolare i costi sanitari legati all'ipercolesterolemia? Siamo riusciti ad accedere ai sistemi informativi delle prescrizioni farmaceutiche, quindi avevamo tutto il dato sui flussi dei dati farmaceutici, il sistema sull'assistenza specialistica e soprattutto le schede di missione ospedaliera, quindi il sistema informativo ospedaliera. Seguendo quindi tramite l'utilizzo di un codice anonimo identificativo del paziente siamo riusciti a seguire ogni singolo paziente affetto dall'ipercolesterolemia e in questo modo siamo riusciti a effettuare questi calcoli che sono molto puntuali partendo nello specifico dalla banca dati della Regione Marche, poi esploso a livello nazionale. Ecco, dalla banca dati della Regione Marche, perché Deborah è marchigiana, professor Mennini, i nostri ascoltatori lo sanno, e quando tutte le volte che nominiamo Marche ci si accende un po' il cuore. Ci ha dato questo riconoscimento, professore. Abbiamo questa collaborazione con la Regione Marche, il nostro centro di ricerca universitario, quindi da molti anni accediamo ai flussi informativi e riusciamo a effettuare queste analisi per quanto riguarda il costo delle malattie nel nostro paese. Professore, il suo gruppo ha lavorato anche molto sull'epatite C, che possiamo considerare una sorta di modello, no? Da cui traslare concetti che possono essere applicati anche ad altre malattie, come ad esempio in questo caso l'ipercolesterolemia. Che cosa è emerso? L'analisi che abbiamo effettuato è stata molto interessante, perché siamo andati a verificare quanto costava al Sistema Sanitario Nazionale l'HCV prima dell'introduzione di tutte le nuove terapie molto efficaci che sono entrate in commercio un anno e mezzo fa, e per andare a vedere, grazie ai dati di efficacia di questi nuovi trattamenti, quanto si poteva ridurre la spesa in termini di costi diretti. Perché appunto con queste nuove terapie i pazienti guariscono e nella quasi totalità dei casi c'è un tasso di efficacia di circa il 93%, e quindi siamo riusciti a dimostrare che grazie a un'ottima negoziazione che aveva portato avanti il sistema centrale, grazie all'efficacia di questi farmaci, nei prossimi 4-5 anni, trattando un numero congruo di pazienti ogni anno, non esiste un problema così forte di sostenibilità come veniva soprattutto detto negli ultimi tempi. In realtà c'è una forte riduzione dei costi diretti sanitari che vanno quasi nel corso dei prossimi 3-4 anni a ripagare il costo che si sostiene per queste terapie. E quindi questo immagino sia particolarmente importante anche in tutte quelle malattie croniche che sollevano anche le maggiori preoccupazioni sulla sostenibilità, professor Mennini. Certamente sì, perché è importante fare una valutazione prima di quanto pesa una malattia dal punto di vista economico e sociale, e in questo modo il decisore può avere sotto gli occhi qual è il peso per il sistema e per la spesa pubblica di queste singole patologie e prendere le decisioni più appropriate e corrette tenuto conto delle risorse che ha a disposizione. In assenza di queste informazioni, ahimè, non si riesce a seguire un percorso di cura e trattamento corretto del paziente e non si riescono neanche magari a mettere in atto tutte quelle politiche relative alla prevenzione di cui accennava il dottor Gulizzi prima di me, che sono fondamentali. Io parto sempre dalla prevenzione e poi parliamo di trattamento. Allora, vedi, come sempre, e lo dimostrano anche, no, i dati del professor Mennini e quanto ci ha anticipato il dottor Gulizia, cuore e denari, la salute e i denari si intrecciano sempre di più. Se non hai benessere finanziario, quello di salute, quello, no, come dire, conta moltissimo, ma magari non gli dai la dovuta importanza, anche nel rapporto contrario naturalmente vale questa regola. Allora, intanto dottor Gulizia la prenotiamo, ma perché già Domenico ci sta scrivendo, perché non dedicate poi una prossima puntata ai trigliceridi elencando bene i problemi come state facendo con il colesterolo, quindi il compito c'è. Naturalmente coinvolgeremo anche il nostro uomo cuore denari, il professor Mennini, perché sta facendo tanti studi e quindi noi siamo molto interessati anche agli studi del professor Mennini, che invitiamo a venirci a trovare prestissimo. Vi ringraziamo e vi auguriamo una buona giornata. Grazie, buona grazie giornata a voi, a tutti. Grazie a voi. E noi siamo pronti per andare a scuola? Esatto, abbiamo peraltro anche un sacco di notizie. Stavo guardando che in questi minuti è in corso la presentazione del bilancio annuale della Covip, l'organismo di vigilanza dei fondi pensione. Stavo così un po' monitorando alcuni dati che sono in corso di divulgazione. I nuovi ingressi nel sistema appunto nel 2015 sono stati pari circa ad 1 milione. Complessivamente in Italia aderiscono alla previdenza complementare 5.200.000 lavoratori dipendenti privati, 1,9 milioni di lavoratori autonomi e 174.000 lavoratori dipendenti del settore pubblico. Mi piaceva segnalare questi dati perché, come sapete, è sempre molto vivace la questione della busta arancione, che ci darà la fotografia di quando andremo in pensione, quanto percepiremo di assegno pensionistico, e siccome sappiamo bene che tutti dobbiamo integrare anche con una forma privata, è un mondo che guardiamo questo altrettanto con attenzione. Quando avremo il bilancio esaustivo appunto della Covip, magari saremo pronti a fare anche un nuovo approfondimento di cuore e denari. Adesso però è tempo di introdurre la rubrica del giovedì.